La virtù delle favole, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Al signor de Barillon, ambasciatore. E può dunque alle mie povere fiabe abbassarsi d'un alto ambasciatore lo sguardo e il favor? E tanto ardito sarò di dedicar questi sottili e cari nezzi a un uom affaccendato in tutt'altre faccende, a cui non piace il perder tempo alle buffe contese di cani e gatti e donnole e leoni, che invan talvolta assumono l'aspetto di grandi eroi? No, no, più che di questo leggiate o men o voi, signore, importa ad impedir che d'armati si riversi sulla patria un torrente e che la pace tra il re di Francia e l'Albion vicina mai non si franga. Un tal pensier mi cruccia e invoco pace al gran Luigi, pace a quest'Ercole invitto, affaticato contro l'idra che sempre rinnovella, perché le tagli la sua spada il capo. Se vostr'arte potrà con la parola molcere i cuori e distornare il colpo, a voi consacrerò dei miei montoni, non picciol sacrificio a un abitante dei giochi di Parnasso, un'ecatombe. Vogliate intanto accogliere con più sguardo l'omaggio dei miei versi e il voto che a voi, signor dell'animo, sollevo. Alla vostra modestia ogni altro elogio che fin l'invidia vi tributa è vano incenso, il so né verbo io più ci metto. Fuvvi in Atene, popolo vanesio quant'altri mai, valente un oratore che vedendo il paese in gran ambasce, alla tribuna un dì, forte dell'arte che tiranneggia l'animo del volgo, disse cose stupende e generose sul comune pericolo. La gente, distratta, il lasciò di fin che gli piacque, cercava l'orator con nuove e calde immagini attizzar l'alme più spente. Anche i morti evocò, gridò, tuonò, nessun si scosse e fur parole al vento. Il popol, animal dal capo aereo, invecchiato oramai da 40 anni in cotesti mezzucci di ringhiera, di qua di là guardava alla baracca dei burattini e l'orator si sfiati. Allor pensa costui cambiar registro e disse: «Udite, amici, un fatterello udite. Un giorno andavano per via a concerere una rondine in un'anguilla, quando giunsero a un fiume. Entra l'anguilla nell'acqua e passa. Vola poi la rondine sull'acqua e passa». «E Cerere?» D'un fiato gridò tutta la piazza. «Ah, mammalucchi!» rispose l'orator. «E tanto a cuore vi sta questa scipita favoletta? E non vi punge o scempi l'ignominia che Filippo il Macedone con l'armi porta alla patria vostra?» A queste voci finalmente si aprirono gli orecchi della gente e poté con piccolo gioco trarre a sé l'orator gli animi tutti. «Tutti siamo anche noi, popol d'Atene, ed io stesso, che predico, pel primo». Se tu mi vieni a raccontar l'istoria dell'augellin belverde, oh, ch'io divento matto dal gusto. Il mondo forse è vecchio, ma si diverte ancora e bamboleggia alle belle storielle d'una volta. Fine della favola, la virtù delle favole. Questa registrazione è di dominio pubblico.